Trentesimo canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, trentesimo canto. Nel tempo che Iunone era crucciata per Semelè contra il sangue tebano, come mostrò una e altra fiata, Atamante divenne tanto insano che veggendo la moglie con due figli andar carcata da ciascuna mano, gridò: «Tendiam le reti, sì ch'io pigli la leonessa e i leoncini al varco!» E poi distese i dispietati artigli, prendendo l'un ch'avea nome Learco, e rotollo e percosselo ad un sasso, e quella s'annegò con l'altro carco. E quando la fortuna volse in basso l'altezza dei Troian che tutto ardiva, sì che insieme col regno il re fu casso, ecuba trista, misera e cattiva, poscia che vide Polissena morta, e del suo Polidoro in su la riva del mar si fu la dolorosa accorta, forsennata la tro sì come cane, tanto il dolor le fe la mente torta. Ma né di Tebe furie né troiane si vider mai in alcun tanto crude, non punger bestie, nonché membra umane, quant'io vidi in due ombre smorte e nude, che mordendo correvan in quel modo, che il porco quando del porcil si schiude. L'una giunse a capocchio, e in sul nodo del collo l'assannò, sì che tirando grattarli fece il ventre al fondo sodo. E l'aretin che rimase, tremando, mi disse: «Quel folletto è Gianni Schicchi, e va rabbioso altrui così conciando.» «Oh», diss'io lui, «se l'altro non ti ficchi i denti addosso, non ti sia fatica a dir chi è, pria che di qui si spicchi.» Ed egli a me: «Quell'è l'anima antica di mirra scellerata, che divenne al padre, fuor del diritto amore, amica. Questa a peccar con esso così venne, falsificando sé in altrui forma, come l'altro che là sen va sostenne, per guadagnar la donna dalla torma, falsificare in sé buoso donati, testando e dando al testamento norma.» E poi che i due rabbiosi fuor passati sovra cui io avea l'occhio tenuto, rivolsilo a guardar gli altri malnati. Io vidi un fatto a guisa di leuto, pur ch'egli avesse avuta l'anguinaia tronca dall'altro che l'uomo ha forcuto, la grave idropesì, che sì dispaia le membra con l'omor che mal converte, che il viso non risponde alla ventraia, faceva lui tener le labbra aperte, come l'etico fa, che per la sete l'un verso il mento e l'altro in su rinverte. O voi che senza alcuna pena siete, e non so io perché, nel mondo gramo, diss'egli a noi, guardate e attendete alla miseria del maestro Adamo. Io ebbi vivo assai di quel ch'i volli, e ora lasso un gocciol d'acqua bramo. Li ruscelletti che di verdi colli del Casentin discendon giuso in Arno, facendo i lor canali freddi e molli, sempre mi stanno innanzi, e non indarno, che l'imagine lor vie più m'asciuga che il male ond'io nel volto mi discarno. La rigida giustizia che mi fruga tragge cagion del loco ov'io peccai a metter più li miei sospiri in fuga. Ivi è Romena, là dov'io falsai la lega suggellata del Batista, perch'io il corpo su arso lasciai. Ma s'io vedessi qui l'anima trista di Guido o d'Alessandro o di lor frate, per fonte branda non darei la vista. Dentro c'è luna già, se l'arrabbiate ombre che vanno intorno dicon vero. Ma che mi val co le membra legate? S'io fossi pur di tanto ancor leggero, chi potessi di 100 anni andare un'oncia, io sarei messo già per lo sentiero, cercando lui tra questa gente sconcia, con tutto ch'ella volge 11 miglia, e men d'un mezzo di traverso non ci ha. Io son per lor tra sì fatta famiglia. E m'indussero a batter li fiorini ch'avevan 3 carati di mondiglia. E io a lui: chi son li 2 tapini che fumman come man bagnate il verno, giacendo stretti ai tuoi destri confini? Qui li trovai, e poi volta non dierno, rispuose, quando piovvi in questo greppo, e non credo che dieno in sempiterno. L'una è la falsa ch'accusò Gioseppo, l'altra è il falso Sinon greco di Troia, per febbre aguta gittan tanto leppo. E l'un di lor, che si recò a Noia, forse d'esser nomato sì oscuro, col pugno li percosse l'epa croia. Quella sonò come fosse un tamburo, e Mastro Adamo li percosse il volto col braccio suo, che non parve men duro, dicendo a lui: ancor che mi sia tolto lo muover per le membra che son gravi, ho io il braccio a tal mestiere sciolto. Ond'ei rispuose: quando tu andavi al fuoco non l'avei tu così presto, ma sì e più l'avei quando coniavi. E l'idropico: tu di ver di questo, ma tu non fosti sì ver testimonio, l'ave del ver fosti a Troia richiesto. Sì, io dissi falso e tu falsasti conio, disse Sinon, e son qui per un fallo, e tu per più ch'alcun altro demonio. Ricorditi, spergiuro, del cavallo, rispuose quel ch'avea infiata l'epa, e sia Tireo, che tutto il mondo sallo. E te sia rea la sete onde ti crepa, disse il greco, la lingua e l'acqua marcia che il ventre innanzi agli occhi sì t'assiepa. Allora il monetier: così si squarcia la bocca tua per tuo mal come suole, che, s'io ho sete e omor mi rinfarcia, tua è l'arsura e il capo che ti duole, e per leccar lo specchio di Narcisso non vorresti a invitar molte parole. Ad ascoltarli er io del tutto fisso, quando il maestro mi disse: or pur mira, che per poco che teco non mi risso. Quand'io sentia a me parlar con ira, volsimi verso lui con tal vergogna ch'ancor per la memoria mi si gira. Qual è colui che suo dannaggio sogna, che sognando desidera sognare, sì che quel ch'è come non fosse agogna? Tal mi fec'io non possendo parlare, che disiava scusarmi e scusava me tuttavia, e non mi credea fare. Maggior difetto men vergogna lava, disse il maestro, che il tuo non è stato, però d'ogni tristizia ti disgrava. E fa ragion ch'io ti sia sempre allato, se più avvien che fortuna t'accoglia dove sien genti in simigliante piato, che voler ciò udire è bassa voglia. Fine del 30° canto dell'Inferno.